Le strade della comunicazione. Nel villaggio globale gli orizzonti della comunicazione sono sempre più allargati. Per questo, tra le figure professionali più richieste oggi c'è l'interprete o mediatore linguistico-culturale. Tanti gli ambiti in cui questi professionisti sono richiesti e tanti quindi gli sbocchi professionali, dalle aziende private fino alle organizzazioni internazionali. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Traduttore specialistico. È un esperto di alto profilo, chiamato in vari ambiti al compito di portare il testo nella lingua di origine a quella di destinazione, mantenendone il più possibile inalterato il significato e lo stile, anche attraverso processi di adattamento per superare le distanze linguistiche e salvaguardare elementi fondamentali quali ritmo, registro, suono e metrica. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza dell'Università Yulm, www.yulm.it.